abbiamo questa caduta che per quanto riguarda l'Italia io ho la sensazione che abbiamo già dato sostanzialmente, siccome le famiglie hanno una notevole dotazione di risparmi, a un certo punto useranno questi risparmi e arginaranno la caduta, ma altri paesi, Germania compresa, hanno famiglie con situazioni molto peggiori, quindi non hanno questo, diciamo, cuscinetto che può essere attivato in caso di crisi come abbiamo qui. Quindi mentre forse l'Italia metterà in conto delle cadute molto minori o anche qualche piccolo segno più, come dice il Centro Studi Confindustria e come si vede dall'analisi di qualche settore, per carità sono segni minimi, purtroppo gli altri grandi paesi non sono ancora in questa situazione, potrebbero rotolare ancora un po'. Tutto questo ha conseguenze anche di carattere politico, la signora Merkel deve fare la legge a settembre, ha bisogno di un'economia che tiri, l'economia da sola difficilmente si rimette in moto, c'è bisogno di un'iniezione e speriamo che abbiano coraggio di farlo. Che tipo di iniezione parla, professor De Aglio, di un intervento nuovo della Banca Centrale Europea oltre a questo allentamento dei paletti? Sì, un po' quello che ha detto Olli Rehn, cioè lasciare più tempo per rientrare dal deficit, che vuol dire consentire alle amministrazioni pubbliche di spendere un po' di più. Non importa in questo momento in che cosa spendono, basta che qualcosa venga messo in circolo, perché se non mettono in circolo le cose non vanno a buon fine.